faccio tenermi, no, sento odori, forse il vicino ha attaccato il caminetto mio, oppure mamma sta andando fuoco alla casa, dai, torno subito. Oh, grazie Claudio. Che è successo? Cos'è che sta bruciando? Guarda, un po' se lo dici adesso, se sa se perché ha. No, Anto, c'è qualcosa che non riesco a capire, bu. Perché sta facendo così? Ma hai strumento attaccato, noti qualcosa? No, c'è lo strumento attaccato. Non cambia apparato, è vero. Allora, è un problema di apparato, Anto. È un problema di apparato, non c'è partito qualcosa nella linea di trasmissione. Cosa stai usando? L'850, cosa stai usando? No, negativo, 48. Era un 48? Via. Qualcosa c'è che non va vale, l'Anto, dai. Mettilo un altro se ce l'hai. Eccomi, sì. Il vicino ha acceso il camino, era quello l'odore che sentivo, infatti arrivava da fuori. Vabbè, quindi mi ha dato la legge questo leggero, ho detto ma non compromette la modulazione, no? Se fa vedere la sola, boh. Scusa, ti avevo una bassa, cosa hai detto? Comunque quel leggero ronzio che c'è in banda laterale non compromette la modulazione, spero. Assolutamente, ma neanche per sogno. Io ho percepito proprio una... quasi niente, hai capito? Assolutamente, Marco. La radio non ha assolutamente niente, è perfetta, va benissimo. No, perché te l'avevo detto, no, che per uscire bene in AM ho fatto la modifica indicata da un ordinatore, cioè cambiare nel microfono dentro un condensatore e una resistenza. E quindi dalla volta della modifica sente questa cosa qui. Ecco perché ti ho chiesto se avevi un MD100, capito, un microfono simile di Esu con quei poli là per fare la prova con un microfono non toccato, capito, originale. Io ti ho risposto di sì, però non ce li ho clippati, capito, i connettori normali, perché le mie radio, tutte e due della Iaesu, sono col connettore normale, capito, con l'attacco normale a 8, capito, normale a ghiera, sono tutte così da radio che ho io, non ne ho di quelle lì, assolutamente. Sì, ci vorrebbe un mic originale, uguale, questo è quello senza tasti, mi si chiama, aspetta che ti dico come si chiama, non vedo niente qua, MH31, no, quello c'ha tre tasti, sintonia su giù e fast, no, per andare veloce. Sì, l'MH31, certo, è quello che praticamente si usa normalmente senza tastiera di TMF, senza niente, capito? Va bene, ok. Comunque ti ripeto, per la prova fatta, io ho provato anche a ascoltarti con l'ICOM e lì c'è l'antenna monopala di 10 ed è perfetta, non ci sono problemi. Pomponio, degnati di rispondere, io... Tu c'hai un 940, sì. Ah, ma sai perché? Come ho messo la potenza a manetta, ho 20 watt in AM, 20 watt, dovrebbero essere 20 adesso, e quindi anziché 4x4, 16, un Santiago in più dovrebbe essere. No, è molto più alto, secondo me ne hai di più di 20, perché di 30 poco fa, adesso sei 40, si è andato proprio a finire sul 40 pieno, e praticamente non mi tornano i conti. Eia, pure questo in AM ha 20 watt, in SSB ne ha 100, però in AM ne ha 20, magari qualcosa in più, dai, ne sta dando qualcosa in più e non lo so, meglio così. Oh, bello, è bello. Poi io mi ricordo che prima del ricevitore Texun me lo portavo senza microfono, come fosse un ricevitore mi, e riceveva con un bijou con quell'antenna veicolare, era alto 1,80 m l'antenna veicolare, e rendeva abbastanza bene. Ma la radio quella che ho letto, poi a prescindere dal l'uso che io non ne faccio, l'hai, te la tieni, va bene, io ti ripeto, se non avessi avuto due gemellini della Icon, l'avrei presa, l'avrei messa lì in V e in V basta, perché grazie a Dio in HF sono abbastanza attrezzato e anche di ultima generazione, a parte l'Icon, ma gli altri sono nuovi, proprio più di ultima generazione, quindi non me ne farei niente, capito? In macchina non ne uso, ho due veicolari nuovi che sono tutti e due dentro l'armadio, perciò non me ne faccio assolutamente niente. Se non te l'avrei preso anche adesso, sarei venuto, me l'avrei preso, l'avrei messo lì in V in U e ciccia, capito? Con microfono normale, che me ne frega, tanto per l'uso che ne faccio in V in U, capito? Però se uno lo prende lo deve usare, è completo di tutto, cioè un quadribanda lo usi su quattro bande. Sì, questo appunto era bello perché era quadribanda. La Yaesu l'ha rifatta nuovo, che è molto simile d'aspetto, no? Col manopolone, col display colorato, e gli ha tolto V e U. Praticamente ha rifatto il quadribanda e l'ha fatto solo monobanda, o meglio V, cioè HF più 50 MHz, e ha tolto le due bande V e U. Immagina che stronzata che hanno fatto. Cioè, proprio questo apparato era apprezzato perché era quattro bande, quindi in macchina con due antenne facevi tutto, una per le VEU e una per le HF. L'hanno fatto bello, luccicante, con i colori, però gli hanno tolto due bande, VEU. E quindi la gente era contrariata, dice, come? Lo rifanno e lo fanno azzoppato, e ormai è diventato monobanda quasi, capito? Solo HF. Più 50 MHz che non li conto nemmeno io. Vedi, ne avevo due di dipoli dei 50 MHz che sono piccolissimi, 1,75 m, potevi attaccarlo lì dalla parabola all'antenna, anche quella che c'hai del BMR, proprio 1,75 m di roba, bellissimo, fatto a perfezione. Li ho dati tutti e due, poi per che cosa? No, se ne potevo lasciare uno te l'avrei dato, almeno 50, adesso inizia la propagazione, l'estate, i QSO, si spostano diversi animatori a fare prove eccetera, puoi seguire, qui sai anche come va in 50 mega, come ricevitore eccetera, capito? Non ne ho altro antenne dei 6 metri. Quando ho fatto l'impianto nuovo, che ho messo le direttive, praticamente ho tolto tutta la mondezza che c'era sul tetto, però quelle filari funzionavano molto bene, ho girato tutta l'Europa in 6 metri con il dipolo, quindi. Sì. Poi spesso chi ha questi apparati li usa anche dalla macchina in CW, cioè senza fonia, giri mezzo mondo in fonia, capito? Col CW, peggio il digitale, capito? In modo digitale, sai quanto si divertono appunto i radioamatori potendo spaziare da modi digitali, CW, fonia, eccetera. Però questa patente non sa da fare. Queste sono scelte che dovete affrontare. Io quando l'ho voluta non sono stato lì a chiedere né informazioni a uno e all'altro, né andare a rompere le scatole l'uno all'altro. Mi sono imbattuto, me la sono presa. Ci vuole quella forza, ci vuole quella voglia, capito, anche per poter poi essere sicuro della detenzione, soprattutto perché l'uso è una cosa, ma la detenzione è un'altra, e tu lo sai meglio di me. Quindi una volta che hai tutte le carte in regola e puoi detenere qualsiasi cosa, la usi o non la usi, non interessa niente a nessuno, però l'attenzione è molto importante, non hai spaventi, non hai chi ti attacca a destra e a sinistra, tutto qua. Bene, vediamo un pochino se Antonio ha risolto il problema. Antonio, no, negativo, poi è stato l'abbandono lì, ma secondo me non è l'antenna, perché se segnale potrebbe essere anche il suo, visto che stavo usando poca potenza. Quindi provarsi pure che il baracchino lì che non ha molto, è rimasto un po' troppo fermo, qualche condensatore, qualcosa in perdita. Vabbè. Mentre Antonella Lecce, hai finito di cremarti, io ti avrei cremato una volta per sempre, ti sarei occupato in mezzo allo vugo. Se così non lo sentiamo più, non lo vediamo più, e tutta la sera ci mette le creme, le cremine, due sono le cose, o si sta cremando perché è già arrivata la fine, quindi se non si vuole far aiutare a nessuno, oppure sta diventando un mezzo vecchione. No, già lo so io che crema è. L'ho vista a casa sua, la crema contro la psoriasi, che lui era preso male con quella roba lì. Infatti ho detto, questa cosa è vaselina, ha detto, no, crema contro la psoriasi. Eia. Bene, oggi domenica, giornata di baracchini, potrei accantonare questo e mettere quello che mi ha restituito Gianni e passare il resto della serata a modulare con quello, visto che non l'ho proprio, l'ho schifato, mi l'ho lasciato nella busta, buttata nell'armadio, vai non ammala. No, ma poi io quello vorrei fare, veramente non sto scherzando, vorrei fare la prova qua, perché sono convintissimo, perché ho più sentito quella radio, Marco, caspita, era una bomba, era veramente molto molto bella, mi è piaciuta come caratteristica audio, molto performante, molto chiara, anche abbastanza forte, però quando l'ho usata Gianni c'era questa modulazione che hai sentito anche tu, non mi piaceva, molto meglio la sua col Galaxy, ne abbiamo già parlato di questo, ma non per disprezzare la radio, perché magari secondo te non va bene, non c'è un problema, secondo me è una questione di timbrica. È una questione di timbrica, non ha assolutamente valore, cosa possiamo dire, da pronunciare un problema su quella radio, ecco, tutto qui per me è così. Che lo sa Claudio, però caspita, cioè, se Gianni parla con un 3009 originale, senti la sua voce originale come dal vivo. Se lo stesso parlo io, senti la voce originale, ma lì era proprio camuffata, mi era soffocata la radio, proprio mi ricordo il termine che hai usato, soffocata era come radio, non so il perché, ha preso colpi col microfono, e mi sa che lo attacco, dai, tanto la serata è lunga, cambio radio, dai, così... Oggi facciamo tutto, facciamo oggi, dai, la prendiamo anche nel questione. Non c'è problema, a me piace prendere nel questione. Sì, ma ti ripeto, ribadisco, quella non l'abbandonare, lasciala sempre attiva in modo che puoi usarla, farla andare come quando vuoi, capito? Perché quella è molto più pericolosa rispetto a un baracchino, lo sai benissimo, un digitale, quindi deve funzionare, deve rimanere accesa, deve andare quella radio, Marco. Sono qua, cambia, così ti dico esattamente se il mio pensiero che avevo espresso nei confronti di Gianni è valido o no, perché secondo me la modulazione sua per me con te andava benissimo, però vabbè, sono qua. E tra poco entro, dai, chissà che entri qualcuno, perché anche PMR oggi sono tutti a dito in culo, come si vuol dire, non c'è nessuno, qua ci siamo solo noi, Pomponio si sta cremando. Non ce n'è altro nessuno, dai. Piuttosto, ma anche domenica Gianni lavora, mattina e sera. Cosa hai detto? Mi stavo prendendo le occhiate. Cambia Marco, vediamo. Sono qua così, vediamo un pochino com'è la situazione. Perché nel frattempo devo mangiare a Filippo un secondo, arrivo subito. Datemi un secondo solo, che sto dando a mangiare il cane, un minuto solo che prendo subito, Marco, e un attimo. sono qua, Mi collegato Marco la radio. Aia, un attimino, che qua è tutto. Dovrei volare, ecco, allora, ecco a zero, autoascolto a zero, potenza, lo mettiamo 4 watt, circa 4 watt, dai. Ecco qua, Magnum S45 HP, noto come Omega Force, con la mia voce. Dimmi se è migliore di quella di Gianni. Allora, in partenza, come l'hai collegato, ho dovuto disinserire l'NB, ok? Per le regolazioni che ha fatto Gianni, va bene? Come hai messo a posto le regolazioni, ho inserito l'NB, è uno spettacolo, come ti avevo detto, è la tua modulazione. Cioè una cosa, questo è mic originale della radio, preamplificato, originale preamplificato della radio, poi la radio di suo ha un precompressore sempre fisso, ci siamo, quindi siamo con preamplificato di serie con compressore. Distanza di modulazione 20 cm, perché se parlo così non va bene. 20 cm di distanza dal mic, la mia voce dovrebbe essere capibile. Mi vorrei sentire, guarda, se ci fosse Stefano mi registrerebbe. Adesso attacco il turbo compressore. Tu attacca tutto quello che vuoi, io ti registro e te lo mando su WhatsApp. E poi ti dimostro che non è così. La tua è pronta. Via. Questo è il turbo compressore, distanza sempre 20 cm dal mic, canale 10 in modalità AM, turbo compressore inserito con picchi più notevoli. Ola, ola, arrivo a fondo scala, eh? Ma va meglio, molto più bella modulazione senza turbo. Sì, è più chiara. Ecco, lo devi lasciare come la prima, la modulazione è perfetta. Quindi si tratta di una di un cambiamento proprio di voce che appunto fa sì che la radio vada peggio rispetto a come sta andando adesso. Cioè con Gianni la differenza era abissale, così è. Abissale, guarda, allora aspetta che ti voglio registrare e così te la mando, aspetta. Parla. Ok, allora siamo sul canale 10, canale 10 in modalità AM, l'apparato è un Magnum S45 HP, noto anche come Magnum Omega Force, microfono amplificato di serie, nonché compressore fisso di serie, purtroppo è fisso, non disinseribile. Vediamo un po' come va a distanza dal mic, 20 cm. Ah sì, te la mando, e così tu mi dici a vedere se è fattibile una cosa del genere. Con WhatsApp? Sì, te l'ho mandata. Vedi un po', perché secondo me c'è un abisso totale. Ecco, me ho preso il pranzo, ho portato il pranzo sul tavolo. Ecco, adesso lo accenno, è già acceso. Qua c'è poco campo, ma già prende, dai. Ascoltatelo, per me è bella forte, bella, non c'è problema, capito? Va molto bene, ottimo, direi. Ottimo per la truppa, dai. Ottimo per la truppa e anche per tutto il reggimento. Guarda quella paracura, guarda quella paracura di gatta, mi ha sentito lo spezzatino di maiale, stava mettendo la bocca sul piatto quasi. Vieni qua, puffa, già te ne do un po', dai. Toga che mi stava miagolandomi, mi stava corteggiando un po'. E dopo gliene do un po' anch'io, dai. È poco e lento a venire, adesso, tanto per... Sì, la linea c'è, un po' lento, ma gli arriverà, dai. Adesso ci sei? Sì, sempre qua sono io. Allora, questo amplificato devo stare a 20 cm, no? Ecco, qua a destra ho messo un mic normale, però anziché a 20 cm sto parlando vicino. Sicuramente migliorerà ulteriormente la timbrica. Questo non è amplificato, ripeto, mic normale col compressore di serie della radio. mi dirai tra le due quali preferisci. Questa cos'è? Mic normale su Magnum S9, cioè su Omega Force. Va bene anche questa. Guarda, ti faccio il passaggio, no? Se come timbrica, guarda. 1-2-3, canale 10, modalità M, microfono normale, microfono normale. Ho due microfoni, quindi come premo uno molo l'altro. Questo mic normale, questo mic preamplificato di serie a 20 cm di distanza. Quale ti piace più delle due? Questo secondo. Ma spinge di più? Il doppio. E poi giustamente l'altro è normale, però il bello è che il normale non distorce, capito? Ok, dai. Adesso, Claudio, devo fare una pausa per mangiare, dai. Poi già rientro, qua è tutto acceso comunque. Sì, me ne accorgo anche dai picchi che sale di più. Hola. Sì. Ok, dai, vabbè, mangio un attimino, dai, speriamo che entri qualcuno, perché oggi sono tutti a ditto, già hai capito? Sì, qua sono io, ti ho detto che non parlo se c'è gente, se non c'è gente, rimango se niente, ce l'ho a fare. Ti aspetto, sono qua, sul canale 10, over. Ricevo solo un'altellata in ricezione. Perché ho cavi sopra cavi, capite? Tutta una cozzaglia di cavi qua, e quindi interferisce un cavo con l'altro, capito? Solo ricezione però, e credo, spero. Vabbè, dai. Adesso mangia, fai quello che stai facendo, non avere problemi, già sono qua. Quando è finito mi chiamo. Ok. Ok, a dopo, dai. Allo. Allo, mister Stefano. Buona tarde, compagno. Buona tarde. Buona tarde. Buona tarde. Hai fatto tutto? Sì, ho fatto tutto, sono appena rientrato. No, sono uscito un attimo, sono prendo un caffè con un amico. E sono tornato ora uora, accidenti. Ma sei uscito con quello di stamattina? No. No, negativo, no. Un mio amico. Ok. Chi c'è rimasto? Marco sta pappando. Sta pappando, io mi stavo prendendo gli occhiali e sono preso una mazza. Se mi chiedono qualche controllo faccio figure brutte, non mi faccio gli occhiali, l'ho vista almeno per sì, quando sto qua in radio. Poi c'era il motopompa, non so che fine ha fatto, si stava cremando, perché ha detto che oramai è arrivato alla fine, quindi dice per cremarlo gli altri si stava cremando lui. E ho capito, ma voglio dire una cosa, non me ne ricordo più. Sai che non me ne ricordo più. No, ho fatto il maleducato entrando così di, ecco, questo volevo dire. Ho fatto il maleducato entrando così di botto, ma non è mio solito, ma vabbè, se non c'era nessuno, questo gli amici mi scuseranno. Comunque continuo a dire sempre, dirò sempre, chi ci vuole male gliene escono gli occhi. Io sono solidale con te, altrettanto dico, se in questo canale ti puoi permettere tutto, lo sai, sono solo io e altre persone come me che apprezzano queste cose, in altri canali magari non ti permetteresti, ma qua non ho nessun problema, perché nessuno ti può né attaccare né dire niente in mia presenza, sui. Quando non ci sono io è un altro discorso, ma io qua sono sempre presente, come gli altri si hanno creato il loro gruppo, io mi ho creato il mio, va benissimo alla grande. Ma Pauletto, l'hai sentito? Gliel'hai detta quella cosa che ti ho detto? No, la verità l'ho sentito oggi per due volte ero impegnato e ci siamo detti che ci siamo sentiti più tardi, infatti io fra un pochino lo chiamo, devo anche dirgli una cosettina e niente, sì, ci siamo sentiti per qualche secondo, ero impegnato in altre faccende lui oggi. Vedo sul cluster c'è qualcuno in 15 metri vicino di casa, c'è l'ora di accesa, 9 sono in 40 io. In quella vado a Tenerife c'è me, in 20 è di 8 URT. Ehi, URT, nome attivo che. Ehi vabbè, sono qua collegato anche a Andorra, insomma la Vaticana, già te l'ho detto. Altre stazioni. so, ma mi diverte così, anche se non riesci a fare grandi cose, perché non, cioè, con i mezzi che io in questo momento ho qui, e non riesci ad andare più lontano, però insomma basta anche la propagazione permettendo. Cioè, ieri il Brasile è perfetto, Brasile, l'Uruguay, insomma, non è che siano facili farli in certe frequenze. Però il punto è divertirsi, non quantificare in quanto hai fatto. Il cosa è divertirsi, passa una bella giornata, come ho fatto anche oggi, mi sono divertito, con ragazzi delle sensazioni, mi sono proprio divertito, ho fatto una cosa di utile anche per gli amici fuori della Sardegna, per cui mi è stato molto proficuo questa giornata, mi sono proprio divertito. Sì, ho letto io anche stamattina, ho fatto appunto il Brasile 40 e non ce l'avevo, mentre il giorno che abbiamo riattivato il computer praticamente ho fatto il CP7 Delta Papa per la Bolivia, il 20 metri, che ho antenne proprio 10, 15, 20 e 40, e poi ho fatto Vittoria 51 Whisky Whisky, che è la Namibia, e poi basta, è un sudafricano, e basta in quel giorno lì. Poi il 15 poi ho fatto delle prove con uno spagnolo per vedere appunto se andava tutto bene, e poi ho trovato Attoni a Repubblica di San Marino lì, l'ho detto, di 77 Charlie, che l'avevo già collegato, ce l'ho in diverse frequenze. E poi Croazia, Belgio, Polonia, Lituania, sempre in 20, sempre in 20. E poi stamattina ho messo al logger Antonio, a Jigsaw, che appunto c'era il contest, e ho detto, mentre stavo proprio rientrando con l'antenna, ho sentito Zulu della Sierra, che è appunto quella spedizione che c'è in Brasile in 40 metri. Oh, non ho giocato altro, ma ero fermo al 2016, metà del 2016, quindi praticamente ho ripreso a log e a rifare QSO in questi giorni che abbiamo rimesso a posto il cluster, capito Ste? Sì, ho capito. Allora, meglio di niente, meglio non disperare, meglio di niente, piano piano riprendi il ritmo, 1, 2, 3 al giorno. Io molte volte inizio col PSK, la mattina, io alle 7:30 sono già operativo, cioè, visto che ho tempo, a me piace fare radio, faccio colazione, ma vado giù al bar, faccio colazione, prendo il giorno a mio padre, ritorno qui, mi metto in camera, accendo un po' di riscaldamento, accendo la radio e accendo il computer, quanto c'è, inizio col PSK perché è più facile la mattina, insomma inizio con quello, c'è un po' d'Ucraina, Russia e Polonia eccetera eccetera, sai, quelle 2 o 3, anche se ne faccio 2 la mattina, mi sta bene lo stesso, inizio la giornata bene, e poi no, cioè, non ho competizione con nessuno, per cui no, non mi interessa. Vedo che il mio look up sono ad oggi, a questo momento, 208.007 in questo istante, quindi oggi mi hanno visto un sacco di persone, perché stamattina io tengo il conto del look up ogni giorno, faccio la mia cerca del look up, stamattina 207.300, adesso sono 208.007, quindi più di 1.000 persone mi hanno visto in oggi, capito? Quindi questo vuol dire molto. Ma certo che sì, no, vabbè, ma io ero anche un po' così, perché non avevo posizione grafica, no? Nel senso, frate, adesso che si è riattivato tutto e sono ordinato, quindi magari ho più aggiornamenti, più cose, va bene. Sì, ho visto la Didi Sport, me l'avevo fatto mandare quando poi eravamo in coso. Ma poi sono passato stamattina a 7.153, avevi già chiuso tu, perché sul 4 ho visto a 7.392 Antonio, siccome avevamo mandato un messaggio sabato appunto di collegare questi miei appunti, allora sono passato stamattina e l'ho collegato, ho capito di 7092, poi ero sempre in anche adesso sono in 40 e 20 con tutte le radio, insomma dai, piano piano speriamo che mi rivenga un po' la passione, la voglia. Ti ripeto, ho fatto qualcosa da quando mi hai un po' spronato, da quando abbiamo sistemato il cluster, qualcosa ho fatto, niente di particolare, ma comunque ci sono due bei collegamenti da 7000-8000 km, adesso sono qua vicino, ma giusto per fare le prove di transito sul logo, capito? Sì, vediamo se qualcuno vuole entrare, prego. Niente, vabbè. Va bene, sì, no, piano piano, ti ripeto, poi magari un giorno che mi avvicino ti faccio vedere, cioè, poi non so se tu qualche radio ce l'hai via CAT collegata, che è molto più facile trovarti anche la frequenza, sintonizzarti col CAT è più facile, col cluster, il CAT è un attimo, settare subito la frequenza e ve lo fai più veloce, poi non, ti ripeto, non so se qualche radio che hai tu sia già via CAT, quindi non lo so. Ti faccio vedere due cosettine, ma giusto per darti una mano, magari le conosci già, però io ci voglio mettere il naso, capito? No, per carità, io ti ripeto, è sempre andato tutto bene, ma da anni, da quando me l'avevano attivato, poi è successo che si è impallato il computer, e siccome mi ero rotto le scatole perché un po' andavo, era lento, qui e là, l'avevo comprato nuovo, ma quello come so a parte, però rimaneva sempre il fatto, che ne parlavamo spesso, di poter recuperare il logo, perché un peccato, i collegamenti ci sono, perché non, perché è facile, no, rimetterlo sull'altro nuovo e abbandonare tutto, no. E quindi il giorno che appunto ho parlato, ci ha messo al collo, sia con te che con Luca, per poterglielo portare a metterlo a posto, ho detto prima di portarlo voglio vedere com'è, che cosa c'è, cioè cos'è successo, perché non funziona. Ho tolto il coperchio e sembrava una parrucca, era tutto biondinato dentro, tutto completamente, quindi pian piano ho portato nel poggiolo, tutto pulito, l'ho soffiato, che ho sempre una bomboletta di quelle spray dell'aria per la tastiera eccetera, anche per le radio, ho tutto fatto nuovo. Poi ho preso lo spray, quello buono per contatti, che ogni tanto foto al mio, se riesco te lo procuro uno, perché sono buonissimi, lui arrivano li prende alla Wurt, ogni tanto glielo frego, magari quando lo usa che lo appoggia, magari a metà boom glielo prendo e me lo porto via, e quindi ho usato quello spray buono per contatti, ho pulito tutti i contatti elettrici all'interno, tutti i connettori, insomma ho tolto tutto, risoffiato, riattaccato, tu riesci a vedere, almeno glielo ho pulito, provo a vedere se accende, ecco, lo porto qua, le collego tutto, in 5 minuti era acceso, ha iniziato a fare tutti gli aggiornamenti, si è da solo, un culo della Madonna che non ti dico, non ho aggiornato nulla a me, perché non ne capisco niente, non sono pulito, è partito da solo. Sì, ho capito magari cosa può essere successo. Può succedere, può capitare che magari può capitare, ma è stato meglio che si sia ripreso, meglio così. Comunque il log poi lo salviamo e poi ti faccio vedere, lo farai tu stesso, perché è una cosa da fare, se perdi il log, ciao, addio, non sai più niente, perché ormai con il log elettronico, prima era cartaceo, ognuno si scriveva il log a mano, capito, faceva tutte le cose a mano, ed era diverso, rimaneva, capito, invece adesso tu elettronico, se perdi quello sei puttito, non sai più niente, ma ti faccio vedere come devi fare per salvartelo. Magari ti devi procurare una penna USB, una chiavetta USB da un giga o quello che è, e te la metti lì. Quando devi salvare ti salvi tutto quanto nella pennina, così ce l'hai nella pennina e non ce l'hai dentro il computer. Altrimenti se si rovina il computer perdi anche se l'hai salvato, il logo lo perdi uguale. Mentre se lo metti nella pennina ce l'hai sempre, e ovunque vai lo puoi trasferire da un computer all'altro e viceversa. Come ce l'ho io, è la stessa cosa, io ho una chiavetta dedicata solo per la situazione radioamatoriale, insomma programmi, programmini, tutte le mie cose che mi servono, il log, diplomi, eccetera, eccetera. È tutto lì, così posso passare da un computer all'altro senza problemi, come quello che ho a Olbia, che tu hai visto, oppure il portatile, oppure quello che ho visto qua, portatile e via dicendo, cioè puoi fare un cambio molto più, insomma, bisogna organizzarsi in questa maniera, altrimenti perdi tutto. Sì, sì, infatti ce l'ho salvato su una cartella. Se tu mi dici da quanto devo comprare la chiavetta, io anche domani, intanto sono in giro per altre commissioni, la compro, la tengo già pronta, capito? Prendo la chiavetta perché il log e il cluster stesso ce l'ho salvato su una cartella, però sempre nel computer, capito? Sì, ho capito, però se il computer si blocca, non si accende più, hai perso tutto, anche se ce l'hai in una cartella, hai perso sempre tutto, e da recuperare è difficile, invece in quel caso lì, anche se lo salvi sulla pennina, il computer si brucia, non te l'ha fatto nulla, il cluster l'ha recuperato sempre, ce l'hai sempre, c'è il cluster, il log ce l'hai sempre salvato nella pennina, capito? No, anche da 4, da 2, da 2, da 4 va bene, capito? Da 1 è piccolina, costa una fesseria, anche i cinesi ce l'hanno, ce l'hanno tutti quanti. Sia da 4 che sei tranquillo. Da 4 giga così? Sì, 4 gigabyte, cioè da 1, da 2, da 4, da 8, da 16, però piglia da 4 che almeno ci sta qualcosa in più, insomma, ti dura di più. Perfetto, domani mattina la compro. No, se ci si vado lì a Predanieta e la compro, entro un attimino lì dalla Media World. La prendo, capito? Così la tengo pronta e vediamo un pochino. Domani molto probabilmente spedisco quella cosa che ti ho detto su a Carlo. Ah, ho capito. Sì, io devo spedire invece, domani chiamerò Saiyasol, devo spedire uno Yaesu che ho, quella KF che ti parlavo, e lo voglio sistemare, è inutile, non mi piace tenerlo qua così fermo nell'armadio, inutilizzato, perché c'è un problema, insomma, che no, io non riesco, io non sono in grado di rilevarlo, perché non sono all'altezza. Insomma, voglio parlare con loro, poi mi diranno mandacelo oppure non si può, si può, insomma qualcosa, domani in mattinata li chiamerò. No, sono persone capaci e a modo, no, beh, quello è un e-commerce, quindi lo mando da Carlo, ne avevo già parlato di questo problemino che ogni tanto fa, bisogna recuperarlo subito, immediatamente, perché altrimenti poi è un casino, tanto c'ho l'altro, quindi non c'è problema, non è che mi cambia niente, capito? Ha qualcosa da vedere e poi me lo rimanda giù subito, immediatamente. L'avevo già chiamato un paio di settimane fa quando ti avevo letto quella cosa lì, appunto, da che avevamo con Paolo. Va bene. Io Paolo, quando vuoi, se lo chiami, se non insomma, un messaggio su WhatsApp, eccetera, ci organizziamo e scendiamo a pranzo. Siamo partiti tranquillamente verso le 11:30, così, insomma, essere a luna lì. Guarda, io venerdì sono sceso, sono partito da qui alle 9:30, 10:20 sono stato. Sono sceso e ho fatto due commissioni che dovevo fare, dovevo firmare il contratto di lavoro, come forse non te l'ho detto, ma comunque ho queste commissioni da fare. Sono andato e sono tornato subito e non sono neanche rimasto lì. Alle 2:15 ero già a Sassi, alle 2:10 sono stato, ero già qui. Quindi sono sceso, sono andato a casa un attimo, ho reggiato un pochino, ho dato una passata di scopa lì al terrazzino che era ancora incasinato e basta, per il resto tutto a posto e poi sono rientrato. No, ma vedi, se noi andiamo a pranzo ne approfittiamo per fare, perché qua tu me lo dici che abbiamo l'ok, diciamo andiamo a pranzo, va bene, dopo pranzo 10 minuti o possiamo farlo anche prima, andare anche prima dalla mattina, non ne frega niente, capito? Non c'è bisogno di partire dalle 10:30, possiamo partire anche prima, ci facciamo quel lavoro che ti ho detto nel diporo, no? Porto il telescopico da due elementi, ok? ci fa quel lavoro che abbiamo detto, se. Capito? Così ce l'hai bello, pulito e ordinato. Sì, ma lo prendo io il telescopico. Ce ne ho, se, di tubi. Sì, c'ho un mare di tubi, ma c'è quanti tubi ne ho tolto dal tetto, avevo tutte le antenne separate, tutti fuori, con una scelta direttiva ne ho tolto tutto. Ce ne ho. Prendiamo un bel piantone, ok, perché lì il vento tira, ci agganciamo a quelle staffe che ci sono, le mettiamo praticamente gli anelli nuovi che già li procuriamo, quelli dovrei farne anch'io su uno, quelle che chiudono con i bulloncini nuovi, si porta tutto, si piantona e si mette il dipolo come deve rimanere, perché lì così non va bene. Vedrai quanto andrà molto molto meglio. Sì, ma tu hai visto come è sistemato, sai quanto faccio da lì? Io faccio parecchio da lì. Pensa tu se dovessi piazzare qualcosa di serio, cosa succede là sopra. Ma infatti è per quello, siccome il polo va bene così com'è, però noi le tiriamo sulla punta leggermente, lo apriamo leggermente, ok, e non le facciamo toccare le cupole del tetto, praticamente, della copertura del tetto, capito? Ci solleviamo leggermente, un paio di metri, niente di che. Sì, io mi sono adattato nient'altro, mi sono adattato soltanto a quello che ho trovato lì sul posto, capito? Non ho fatto niente, proprio, no, era già così, quindi non ho fatto niente, ma ho capito cosa vuoi riferirti. Il dipolo ce l'ho già io, nuovo. C'ho già il dipolo, quello spagnolo della Tagra, lo stesso, c'ha due bracci lunghi così, lo stesso identica, più o meno la stessa cosa. Solo che quello della Tagra è originale, fatto dalla casa, quello lì che è lì l'ho fatto io. Insomma, ma è più o meno lo stesso, preferisco la monto nuovo anche perché i cavi si sono sbucciati, si è visto, si sono ormai deteriorati lì, poi quando picchia il sole è un macello. E poi c'è anche vento, è un casino nero. Ma vabbè, sì, quello è una pezzeria, ci mettiamo un'ora a farlo mi tutto il lavoro. Dove ci vuole, detto, ci andiamo la mattina, poi stacchiamo, quando abbiamo finito, stacchiamo, chiamiamo un po', ci andiamo a pranzo e poi nel pomeriggio ce ne rientriamo come l'altro giorno. Capito? No, non c'è problema, assolutamente. Sì. Si mette lì, dove l'hai messo? Così non hai problemi. Ma l'ho spostato, andava meglio prima, andava. No, lo rimettiamo lì. Si stacca quello, si mette il palo, si tira su, si fa l'apertura giusta e si aggancia come deve essere agganciato. Capito? Lavora molto meglio perché così stai lavorando alla grande, perché fa molto bene, poi hai un'apertura micidiale da lì. Però secondo me c'hai i bracci troppo bassi, vorrebbe tirato un po' più su, capito? Vorrebbe tirato un po' più su, tipo quello che ho messo io praticamente fino a quando non avevo quello rotativo. Bisogna farlo così, come mi avevano consigliato, tra l'altro, rimanere un po' più sollevato la terra perché ha una maggior resa. Sì, no, hai ragione, non ha resa, adesso la resa di quel dipolo non è che sia efficiente al 100%, hai ragione chiaramente, ma io so, già sapevo la condizione di lavoro, però non mi posso lamentare, quello che combina da lì veramente è una cosa spettacolare. Voi la posizione, voi tutto, ma se metto qualcosa di buono, penso che c'era su Rifidenza, che ieri l'ho messo, anche ieri c'era un'antenna della LZ Antenne, quella bulgara che costruisce antenne, poi magari te la farò vedere un giorno. Sono antenne, cioè, direttive spettacolari, un'antenna che costa mi pare 1.500, lui la stava vendendo mai piazzata a 350 euro, guarda, l'ho chiamato, l'avevo già venduta, se no me l'avrei già presa io, guarda. Non so, ma guarda che c'è, l'altro giorno ho sentito Antonio, io sul ponte, che ha una direttiva, mi pare che faccia 10, 15, 20, 40 e 80, mi pare. Sta volando ad un prezzo proprio stracobaratto, non so che antenna sia, non so che direttiva sia. Mantenere quello di Salatina? Sì. impegno quello di stamattina, sì, ma non per metterti qua, non lo so, poi deciderai tu, per me si può mettere anche lì ad Olbia quella, si può mettere anche lì ad Olbia, capito? Oppure qua, provo a sentirlo un po', no, puoi dire anche che l'ho detto io, l'ho sentito in radio, che la dà quell'antenna. Infatti stavo parlando con Gian Nicola, con l'altro suo collega, perché la vorrebbe montare lui, però penso che abbia dei problemi di spazio eccetera, perché non è grande, stavo sentendo il boom, un boom mi pare da, ho capito qual è sicuramente, ho capito qual è l'antenna, mi pare che uguale a quella ce l'abbia. Guarda, se non vado errando, attento, se non vado errando mi pare che sia uguale a quella che ha Paolo. Ah, ho capito, non ho capito. Vabbè, bisogna vedere com'è, bisogna vedere. Ma quella gliel'avrei presa a occhi chiusi, perché l'ho vista, fa chiunque bande, 10, 20, no, 10, 15, 20... cioè 40, c'erano anche i 40, 5 bande faceva, ma una bestia enorme, una cosa enorme, guarda, un giorno te le faccio vedere su internet, è una ditta bulgara che le costruisce e sono veramente ottime perché usa buoni materiali e non costano neanche molto, a parità di prezzo, con quelle blasonate PKV, Cruisecraft eccetera eccetera, ma veramente molto molto buona. E quella che un modello che ci stava vendendo lui, proprio mai usata, scatola ancora scatolata, solamente aperta per vederla, mai scatolata, la dava 350 euro, come l'ho chiamato io l'avevo già venduta, gliel'avrei preso a occhi chiusi, guarda, poi metterla qui o metterla a Dubbia, questo è da verificare, poi intanto l'antenna magari ce l'avevo già in casa, capito? No, no, questa molto meno, tranquillo, tu senti quella persona lì che mi fai sapere, perché dalla misura del boom mi sembra uguale a quella che c'ha Paolo, sì, 10, 15, 20, 40, 80, capito? Io la mia cosa era far allungare, quando ho preso quella PKV doppio, far allungare il boom e praticamente inserisci il dipolo dei 40, però mi avevano consigliato di no, poi invece ho visto che qualcuno l'ha fatto, ma io mi sono lanciato come ha fatto praticamente io, perché ho preso il dipolo rotativo, è ancora da mettere in posizione ottimale, ma devo fare lo spostamento alla Mantova prima, quindi sto aspettando il tempo buono, in questo periodo non c'ho molta voglia perché non sto bene, e quindi sto aspettando, ma appena arriva il tempo buono, ho sposto la Mantova, li tiro su perché è già tutto montato, abbiamo già dato una mano, quindi tiro su il sistemino, che è uguale a quello che praticamente ho con la tre elementi, uguale a quello, la gabbia vabbè, è un pochino più piccola, e lo metto bene, e quello è da solo, quindi io ho la tre elementi 10, 15, 20 e 40, a parte che lo sto già usando, anche stamattina l'ho usato, però non gira del tutto, gira solo una parte perché tocca la mantova, capito? Quindi devo togliere la mantova da lì per poterlo fare girare a 360 gradi. Sì, poi decidi tu, se metterlo qua, metterlo a Olbia, non cambia assolutamente niente. Però ti ripeto, dalle misure che stava dando Antonio a Gian Nicola, mi sembra che sia uguale a quella che c'ha Paolo. Ah, vabbè, poi magari un giorno glielo chiederò quando capita. Va bene. Chi vuole entrare, prego? C'è qualcuno, se non va? No, io lasciamo un po' di bianco, vedere magari se qualcuno vuole entrare. Ah, c'era Antonio Grobbe che stava facendo le prove, ma penso che abbia qualche problema sulla radio. Marco sta mangiando, Antonello, te l'ho detto, si stava limonando lì con le sue cremine. No, io sto caricando il telefono, sto 31 e non troppo faccio caricare poi. No, io niente, io mi sto facendo ora, sono già le 7, appunto, poi verso le 7 e mezza scenderò a portare la pipedu e basta, e niente di particolare. Domani mattina mi devo avvicinare al medico perché mi deve fare l'impegnativa per venerdì, che venerdì c'ho l'altra un'altra visita all'otorino e poi niente, poi preso quello con la malattia sicuramente, sino a metà marzo, adesso vediamo, tanto la lasciamo arrivato, mister. Ormai è finita, boh, ce la tiriamo così. Ho capito. Ma vabbè, no, io sono contento che inizio prima questa nuova stagione, proprio sono contento, ci voleva proprio. Ma mi stava dicendo infatti anche il direttore lì del gruppo Delfina, no? Sia della Torre Ruia che di Marinetta, che quest'anno iniziano anche loro prima, iniziano a fine marzo, perché a Pasqua è tutto pieno, non si è mai verificato, ma c'è una sfilza di prenotazioni a Pasqua. Anche noi, cioè io proprio mi hanno assunto subito perché c'è il lavoro prima quest'anno, ci sono gruppi, c'è roba a marzo, c'è roba che deve, ci sono un sacco di situazioni di lavorative che necessitano la mia presenza, per cui ecco perché sono state richiamate in anticipo, ecco, giusto per dirlo chiaro, quindi mi fa solo piacere. Già ero tranquillo che mi avevo già chiamato entro maggio, però sai, due mesi in più fanno sempre comodo, hai capito? Meglio di niente, e poi i tempi come siamo, cioè stamane a casa così, buttato, si può dire, tra virgolette, in radio o non fare niente, non mi piace, sono abituato a sbagliarmi presto, sono tutto il giorno in giro, insomma è lavorare ovviamente, stando così non è che mi aiuti tanto, ma insomma meglio così. No, assolutamente sì, perché è così, non far niente non passa mai dalla giornata, non passa mai dalla giornata, quindi bisogna poi inventare e fare, vabbè, meglio così stai, meglio. Ascolta, mentre invece quando si è andato là, tuo compare sta bene, sì, sempre berretta. Sì, aspetta un secondo, c'è il telefono, un attimo. Via. Aspetta Marcoli che sono al telefono un attimo. Eia. Sono qua sempre al telefono. Attento pipistrello o rata pignara. Eccomi, sono qua, stavo volteggiando per la casa. No, scusami, io ho un collega che non sapere come stavo. E appunto una chiacchierata, una cosa, ci è fatto un po' tardi. Va bene. E quindi di terminare già. Cosa ti dico? Niente, io ho finito di mangiare, ero abbastanza soddisfatto, poi non è entrato nessun altro, Gine Gianni, nulla, c'è solo sul 20 qualcuno. Non mi riguarda, ho sentito ma non mi riguarda, aveva fatto la pulizia Burichini. Va bene. Quasi mi spengo anche il cluster, intanto già spento tutte le radio, sono già le 7:30, non è che abbia più voglia di stare, qualche collegamentino ce l'abbiamo fatto anche oggi, non vedi ragione, pian pianino mi sta risalendo la voglia di fare, vediamo quanto abbiamo fatto quando abbiamo attivato il cluster. Allora, ne abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, oh, vaffanculo, 6, 7, 8, 9, e 9. 9 questi ho, dai, insomma. 20, 15 e 40, già va bene, dai, piano piano, come ha detto Stefano, già riprendiamo, adesso c'ho più contento, dai. Insomma, la radio ha passato la prova. La prova, solo con Gianni esce tu, parlava un po'. Io, cioè, come parlavo, ho visto, ma sembrava che parlasse cupo. Cioè, io la voce molto più acuta, dai, per quello che va meglio. No, no, no, ma non c'è paragone, Marco. Florinopolis. Sensazione, dolce, radioamatores del Florinopolis. Grazie, Spagna. 38 430. Va bene. Cosa ti stavo dicendo? Sì, per me va molto meglio la tua modulazione rispetto a quella di Gianni, ma ripeto, ribadisco con ordine e causa che nessuna offesa per la prova che ha fatto Gianni, è proprio una questione di timbrica, come succede a me. Tutte le radio che io uso vanno bene, ma le fai provare ad un altro vanno male le radio. Eia. Sì, piacerebbe sentirla da te. Forse tu esci come Sandro Tigre, dava una bella spinta di petto, mi Sandro Tigre. Guarda, quando la mandronia non è troppo forte te lo porto. E ci metti il microfono e voi tutti, porto anche la MB25, così lo provi con quello. Sì, ma ci vediamo questi giorni, adesso. Ripeto, sono un po', non sono avanti a andare al medico, come fa Stefano, fa l'impegnativa per venerdì, e c'ho quest'altro ricovero, e poi insomma, spero che tutto vada bene, un po' più libero, e mi dedico anche a farti questa prova tecnica, capito? Vicino alla... ho messo una posizione dove non mi dà fastidio, lo proviamo, lo faccio sentire, sono sicuro che mi dirai allucinante, perché la spinta che le do io le rimane impressa a lui, se la memorizza. Oh, eia, aspetta che... Sì, te lo usi come faccio un baracchino tuo, no? Te lo usi così per modulare, a vedere cosa dicono tutti. Spinge, perché se tu tieni conto che io col DAC, il Tanner più 3, quando a volte usavo uno o l'altro, nessuno mai si accorgeva, qualcuno mi diceva, ma il 60 stai usando? No, non sto usando il 60, sto usando un altro microfono, ma nessuno mai mi diceva stai usando, per dire, il 430 o il 140 o il 440, capito? Mai. Parlavano tutti sempre di microfono, nessuno si accorgeva che avevo cambiato il radio. Talmente era forte, ed è forte, perché se ti faccio sentire il DAC col Tanner più 3 da paura, è fortissimo, capito? Ma è talmente la modulazione che rimane sempre quella, proprio di petto, poi in questo periodo adesso con le corde vocali ancora più in manutenzione, sto spingendo sempre di più, e più va, adesso ancora la voce non è tornata bene, ma quando ci sarà la voce proprio al 100%, tu vedrai che bella limpidezza. Eia, adesso di nuovo me, per fare, poi chiudiamo, così porta il cane, distanza 20-30 centimetri, però turbo Top Gun modulator inserito è poco sale, guarda, così lontano mezzo metro e più sale un bel 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Bene, sì, perché se parli vicino è un casino, ma se parli lontano migliora tanto, dai. Ok, va bene, bella bestia con questo apparato. Peccato che Gianni non va bene la tibrica sua. Sei oltre 9.40 qui a casa. Claudio, 9 più 30, pensa tu. Sì, ce l'hai più di fianco tu a lui, mio. È una bestia, anche qua è 9.40. Ti crepa, cioè, proprio, volgamente ti passa di DCDB. Sì, sì, ma lo so. C'è quella zona, ho già visto, sì, sì. Ma è 9.40 qua. Certo che lo passi, ha voglia. Sì, sono i picchi di modulazione anche da questo apparato, dai. Comunque, volendo, se a uno non gli interessano i picchi, cioè se uno non volesse i picchi, no, vuole avere solo watt, lo mette a 40, così sono 4. Ecco, lo metto a 40 direttamente, senza avere i picchi, solo portante più modulazione. Vedi com'è il segnale, se, guarda, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 9.35 e 9.40, 9.40 è settembre, invece l'altra volta, l'altro passaggio, portante muta 9 più 20, poi 9.40 modulata. Non ho controllato una cosa, se metto turbo modulatore più 40 watt, vediamo se pompa ancora. 40 watt fissi più turbo modulatore, vedo che sale ancora, 1, 2, 3, prova. Oltre 9.40, ma no, di più non va. Ia, va bene, adesso abbassiamo tutto, dai, sennò qua scurre il telefono. Non metti a quella radio, va bene, 9.40 qua. Andiamo ad arrivare a Sant'Antonio lo Pomponio, ma lì da te, dove lui, c'è un varco allucinante, infatti arriva molto forte anche da Gianfranco lui. Sì, infatti è così. È molto forte, bene. Sono contento, dai. Amico, io ti ho nominato. Vabbè, ho detto che Marco arriva molto forte anche lì da te, capito? Perché da Viale Trento lì c'è un varco proprio diretto per Canica. No, io volevo passare proprio, però l'abitazione nel senso di Tellori, la gente che passeggia a Osilo. L'importante è non vedi aereo a Usini, stai attento, perché se vedi aereo a Usini allora è un casino, capito? Non fare come faceva Stefano Simonini, che dal piazzale di Balai vedeva la lepre saltando a punta scorno. Attento! Cazzo, ogni avallista! Buonasera Gianfranco! Allora, conosciuto là? Ma se mi ha detto una volta alla ricreazione, sempre alle 11 fuori al Nautico, tutti attorno a lui, stavano raccontato che aveva trainato la nave della Tirrenia con una cima, si era tuffata, l'avevano preso, l'aveva tirata indietro lui perché si stava aspettando gli scogli. Mitico, ma cosa ci raccontava mamma? Le cazzate diceva quel ragazzo a scuola era una cosa allucinante. Io mi sono andato via subito al Nautico, ma mio fratello che era lì diceva: guarda, non ti racconto che cosa ha detto oggi la ricreazione Stefano Simoni, ma lui vedeva di tutto e di più da Brai. Lui si sedeva senza canocchiare, vedeva la gente facendosi il bagno lì a Punta Savina, che te varia un raio, ma non ti vai a vedere a Punta Savina se è dietro Cala d'Olifaga. Oh, se poi parliamo di cacciatore qua, non so se ne ha raccontato a Stefano, ma e lui com'era quella, aveva sparato e la palla, non so, aveva saltato, cazzo, mia casina. Sì, ne diceva le bugie, guarda, era rinomato all'Artico, qua in ballista, Stefano Simonini, e si fa carità. Per quello ho detto a Gianfranco, mi lo fa mettere Stefano Simonini, mi sono ricordato che anche tu eri all'Artico e quindi te l'hai conosciuto. Pipistrello, entra a salutare Gianfranco, cammina, male educato, conosce altro. Drogato. Sto mangiando, adesso sta mettendo a posto la radio, mettendo in carreggiata la radio. Io? Ma no, sto controllando i messaggi dei cellulari. Gianfranco, sicuramente per te sono già fuori scala, dai, fuori larghezza di banda. Eccomi a voi, dai. No, come larghezza di banda, Gianfra. sei molto casinista questa radio, dai. Questo è senza il turbo compressore inserito, perché se poi lo inseriamo, peggio che mai. Vabbè, mi allontano un secondo. Ho fatto una telefonata mia. Capito Gianfra? Mi allontano un pochino, fra un po' riprenderò. Dai, state Gianfranco ancora. Al 95 o al 9 e mezzo? No, diciamo che non è troppo esasperato, dai, diciamo. Aspetta che provo il turbo ondulatore, mi dici com'è la larghezza di banda. Ecco, questa è la radio col turbo ondulatore, praticamente sviluppa tutto in watt modulati, perché watt fissi ne ho 5, 4 anzi, gli altri watt vanno tutti modulati, distanza 30 cm dal mic, guarda, così sono 20 cm dal mic, così sono più lontano dal mic, vedi un po'? Vabbè, torno in normale, dai. E com'è come timbrica della voce? Ti dico già il modello Magnum Omega Force S45HP. Cioè, com'è la timbrica della voce? Come vi senti in poche parole? Bene, dai. No, perché Gianni con questa radio usciva molto male, molto. Lui a toni cupi della voce, sembrava proprio soffocata la voce. Non so se tu c'eri all'ascolto quella volta. Era proprio soffocata a toni molto bassi. Io toni più alti nel parlare, quindi questa va bene per me, ma per lui non è andata per niente bene. All'epoca c'era un sacco di gente, sentivi tutto in tutti i canali, capito? Quell'apparecchio sarebbe andato bene adesso perché non c'è nessun altro sugli altri canali. E un cessino era, invece vedi, Superstar tipo 3009, erano fatti molto molto meglio, non prendevi gli splatter che prendevi col e il battimento che prendevi col 3009, ecco, scusa, col ultimo dei tre, voglio dire. Era di due, molti more tre, tutta quella razza lì. Erano dei baracchini che, per carità, roba di spuria mandavano. Poi sentivi lo stesso gente nei canali, come giravi i canali, sentivi una corsaglia di modulazioni. Poi l'avevo venduto a Antonello Pomponio, capito? L'avevo venduto a lui, pagato 335.000 lire, l'avevo venduto a lui a 200.000 lire. Quando c'era Adriano, anno 86, e c'era Adriano in via Lomberto, oggi Claudio assente, da quando ha messo a posto il cluster Claudio è tutto infiammato, per le HF. Chi era il musicista Gianfranco? Vediamo se lo conosco. Infiammato c'hai le corna tu, stavo spegnendo tutto. Poi era la mia figlia che l'ha portato lì. Cosa stavi dicendo? Il musicista, quale musicista? Sì, Fraime. E chi era? Ah, sì. Musicista maestra. No, ma è lo stesso Adriano di cui parlo io. Quello di cui parlo io, anni 84-85. Ma musicista classico, diciamo, sì. Vabbè, dai, non lo so. No, non lo so. Credo di aver capito, no, invece no. Chopin. Certo, quello che con la bacchetta magica, invece di fare apparire la banda, la faceva sparire. Sant'Antonio, 5 per 4, 20 e porto 1, cazzo, non sapevo mai dove rimaneva questo 1. Ah, ragionieri, non hai fatto ragionieri. Sì, ma è come che non ne avessi fatto, dai. Vabbè, ma insomma, la matematica già la conosci, dai. Vabbè, qualcosa la so, dai. Perché lui non riusciva mai a far guardare i conti, capito? Faceva la scena dei conti. 5 per 4 minuti, porto 1, 1. Porto 1, no, togliamolo questo 1, nascondiamolo, non serve a niente. E perché non si è preso una calcolatrice, allora? Cazzo, non hai capito. Ascolta, parlate chiaro, non parlate tutto per Awawa. E Awawa, che a fine serata mancava sempre questo uno, sempre ai conti mancava uno. Sì, fine ci arrivo, dai. Poi ci sei già arrivato, mancava sempre, però, tutte le sante sere. Alla fine Adriano se ne è accorto, e dice, invece di fare 1 più 1 fa 2, diciamo che questo uno spariva proprio. Spariva di brutto, non ci trovava mai, beh. Oi, oi, i CB. Non ce n'è uno sano di CB. Se no già farebbe partire 2 più 2. Dovrebbe dare 4. Sempre 2 da qua. Adriano, vedi, sempre 2 là, non riesco a capire dove sono gli altri 2, 2 più 2 fa 4, perché deve dare 2. Vedi, queste erano cose che, di cui io non ero al corrente. Come stiamo parlando di... Io non ero neanche l'animatore, stiamo parlando del 90, 91. Oh, c'era ancora Adriano nel 91. Oh, io credo fosse chiuso molto prima. No, io credo stesse parlando nell'84-85. Nell'84 avevo 13 anni. Io quando sono entrato in 27 ancora non avevo gli anni per la concessione, capito? Non potevo nemmeno parlare al baracchino. Ne avevo, anzi, forse erano... Aspetta, non... No, 13 erano, ma non ricordo se avevo già compiuto i 14. Cioè, mi sono confuso, che dire... 83, 84, ho detto 93, 91, nel 93 sono detto 93, quindi ero ancora CB quando andavo ad Adriano. E figurati, io sono entrato alla concessione con disciplinare attaccato la fretta HB23, con tunnel più 2 da tavolo, 1973. 73, quindi dal 73 a oggi vado una gascetta di conti correnti. Tra me di già fa quando si pagava l'ura al TV. Distratto Claudio, mi sto giocando col cane, non sono distratto io, sono qua. Sì, ho capito chi c'era, chi era, e vabbè, ma in quegli anni ho già fratto, c'erano talmente persone che girovagavano tra GBC, allora che era il boom, Fusaro, Adriano, poi c'era Bola Porteriano e poi c'era anche Marco Michi che vendesse roba, eccetera, eccetera. C'era un casino di negozi dove tutti andavamo a comprare, a prendere in prova, quella. Io mi servivo solo per quanto riguardava la componentistica, che poco mi interessava, manco per le palle, ma il più ero sempre da Mario, sempre. Il mio covo era quello, sempre da Mario, sempre lì a buttare soldi, a fare trampoli, a casini, sant'Antonio mio. Io forse una ventina d'anni avevo, no, di più perché lavoravo con i miei suoceri, quindi ero già negozio in via Sproni e sì, 23 anni. Tu Marco quanti anni avevi? In che anno? 84? Non so di che anno è, sì, 83, io sono, sì, 24 anni avevo io. Tu di che anno sì? 71. 71, voglio tenerlo a. Comunque, mi ricordo una cosa, che Adriano, no, quello che vendeva i molti Model 3, ho chiuso relativamente presto all'epoca, perché poi nello stesso edificio, cioè nello stesso proprio, nelle stesse quattro mura, è arrivato Marco Michi. Ma Adriano è durato molto o è durato pochissimo, quello che c'era prima di Marco Michi? Adriano si è trasferito a Pedagneta dopo, così era già fra. Esatto, mentre lì vendeva anche, capite? Però si era affidato purtroppo a commessi con un po' le mani lunghe e quindi mancava sempre qualcosa all'inventario, Marco. Alla fine si è rotta le balle, si è accuto un lavoro a tutti e si è messo a fare altro. Quell'attività l'ha rilevata Marco Michi, che è durato quel che è durato, capite? Pensa che Marco Michi aveva portato dall'America quelle pistole elettriche, i cosiddetti sorditori, che poi gli facevano ridere, che uno vede 75.000 volte, ma l'amperaggio era demenziale, dai. Lo usavamo per giocare, capito? Poi me l'avevano chiesto in prestito, non me l'avevano più restituito, dicendo che si era rotto. Era l'anno di grazia, credo il 90, 90 o dintorni. 90 e dintorni, sì, può essere, perché sì, può essere, va bene, comunque c'era un po' di traffico in quel tempo lì, però ti ripeto, era un traffico molto legato al fatto che lavoravamo un po' tutti i civili, eravamo lì a curiosare, a fare, a comprare due stronzate, però io ti ripeto, il vero traffico di quell'epoca ero sempre lì da Mario, in attesa che arrivasse una novità, io ho comprato quasi tutto lì, avevo preso 757 da Iaeso, poi l'avevo cambiato, avevo preso 757 GC2, poi avevo preso un IC225, no 725 mi pare, o 735 se non mi ricordo, poi ero passato al Kenwood, avevo preso il primo 430 e poi basta, poi scemare, avevo tirato avanti diversamente. A 9.40 avevo preso, la botta era al dietro 9.22, 4 milioni, esatto, Antonio. E lui lascia perdere, diciamo, che non ho detto che pietici. La mania della potenza. Tanto, tu ti immagini che noi eravamo ancora allenatore, perché in 27 con foto alla mano, fatte qua a casa, 430 TL922, tutti i cimini carbonati erano spariti, ci sono rimaste solo le antenne. Mi ricordo, ne avevi uno molto vicino e l'hai polverizzato, l'hai, non è più entrato perché era impossibile entrare. Si sente, Don? Ok. Sì, Adriano appunto portava roba dall'America e io l'ho comprato, era nella vetrinetta, l'ICOM IC02A, che era la versione americana, non IC02, IC02A, che anziché il tono 1750 nostro aveva i toni di TMF, mi pare. L'avevo preso più che altro per ascoltare i radioamatori, so che all'epoca più che Raffaele non si sentiva, Raffaele Lumbau, buon'anima, aveva quell'epoca, capito? Ehi, io non capo chi era, mia figlia che ho già fatto la Roma, ha vinto 4-1. Vabbè, ho capito, mamma, comunque sempre prima la Juve a 10 punti, non siamo fottuti. Tu Gianfra eri andato a abitare subito lì, sempre lì dove, di fronte a Uovo Doppio. Però la bambina, non lo so, no, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so uovo doppio, però non nella mansarda, ma dall'altra, nell'altra. Sì, però quello fare il cammino è la profonda militare, eccetera. Poi quando sono la mansarda le ho capito un po' più. Sì, sì, beh, io ti ho conosciuto lì, sono andato a trovare gli attori, proprio che stavi lì, non ti ripeto nell'ultima, ok, dove, per capirci abitava il mio collega di lavoro, nell'altra più avanti, poi ti sei trasferito lì, quindi ti ho conosciuto anche lì, però non sapevo che abitavi a San Francesco, e lì di davanti a Uovo Doppio, capito? Che notizia brutta ragazzi, la Dinamo ha perso in Coppa Italia. Che schiappe! È chiaro, è chiaro. Poi Lugarie, come ti stava? Sì, mi oggi presto a casa, dai. Presto, sono seduto qua al computer, ciao a tutti comunque. Così, dai, mi sto riprendendo da un raffreddore. Dunque, quindi il raffreddore, io sono in malattia, mi hanno tolto un coso, una pietra là, dietro nel retro tonsillare, e c'ho ancora i punti adesso, mamma mia, e adesso il venerdì devo, c'ho l'altro ricovero, quindi lascia perdere, non trascurare mai la gola quando senti vai subito dall'ottorino, vai dal tuo medico, perché può essere molto, molto delicata, come è successo a me, trascurata, e uno spavento che non ti dico, guarda, lascia perdere. Ah, vabbè, io, guarda, quando mi viene mal di gola, l'unica medicina secondo me è limone e miele. Non ti passa subito, però guarda, ti fa la mano di Dio. Poi per quanto riguarda il raffreddore, ci sono delle medicine, comunque l'unica medicina secondo me ci vuole fare il suo corso, comunque sia, è l'acqua del mare oppure un, non so, un Vixinex. Per esempio oggi è proprio intasato, mi sono preso questo Vixinex e la... adesso sto respirando meglio, dai, stasera stavo respirando un bel male. Active Fed spray nasale, il numero uno. Lascia perdere il miele, che aveva un ascesso, proprio il miele, la roba dolce, il limone, mi ha fatto uscire un ascesso retro tonsillare, che stavo affogando, capito? Stavo affogando. Io questo sempre curato, così non ho mai preso qualche spray così, però i colpi d'aria sono per inutile, si sta dal caldo, poi sbatti di temperatura e ti frega, ma poda già passa, tanto mi clai, noi vivi vengono queste cose e molti non gli viene niente. Avanti Gianfranco, buonasera. Beh, normale, i tempi erano quelli purtroppo, però ti ripeto, io quella gente l'ho conosciuta tutta, veramente impressionante, era una bravissima persona, sottolineo questo perché avevamo anche molto molto amici, ma mi dava tutto quello che volevo, tutto quello che volevo, cioè, passo dopo, vai tranquillo, non ti preoccupare, e dopo passavo e pagavo, oppure passavo l'indomani se non ce la facevo, però sempre, molti se ne sono approfittati, soprattutto chi gli ha dato lavoro, perché quel pederasta che abbiamo detto poco fa, il pederasta continua a esserlo per me, ok? Un cattone, uno che non ha mai fatto un cazzo in vita sua, la mattina a sera sempre alle spalle della mamma, se mi sente meglio che mi senta, quello ne ha approfittato perché c'aveva la massima fiducia e faceva sparire la roba, se la vendeva per i cacchi sui, perché l'aveva anche a me, me l'aveva proposto, sono cantatore se lo vuoi, vieni, quando non c'è lui te lo do a tal prezzo, vai a cagare, vai, io vedo quando c'è Adriano, lo pago Adriano, a te non te lo manco un cito, ladro che non sei altro, aiuti. Se c'era Antonello Alessio te lo diceva, perché io a Marco non so se è morto, non so se è vivo, non so che fine abbia fatto Marco Vinci, perché poi io lì, figurati, in quel posto, poi era entrata la Seagi, che era di Giovanni Sacca, che appunto vendeva apparecchiature, macchine da scrivere, fotocopiature eccetera, quindi quello che poi c'è stata una finanziaria lì, ci sono stati altri uffici, altre cose, quindi non c'era più interesse a passare in quella via lì, non so che fine abbia fatto tutto il bravo. Mentre con Adriano ci siamo visti un giorno a Pretanieta, perché lui praticamente si è spostato lì dove c'è Secchi, ok, la pazzia Secchi, laboratorio di Secchi, proprio di fronte a cosa ti posso dire, insomma, dove c'era il coso del Banco di Sardegna, ecco la zona lì, insomma, per andare. Rispetto alla partita che sta facendo questo calamariano, per andare praticamente a Portobello, per capirci, da lì. E quindi ci siamo visti proprio lì. E stavo guardando qua, auto sui binari, blocca la parte a campagna, e vengono senza di Cagliari, cioè Cagliari Sassari. Ma come fa la gente, allucinante. Dice che la macchina si è fermata lì proprio sui binari, ma io forse magari va bene, mentre gli si è fermata la macchina e non riusciva a toglierla, sono passate le sbarre sicuramente, boh, non lo so, ma non mai non c'era nessuno, facciamo guai, era proprio disintegrata. Tu pensa, gli ha fatto fare 40 metri di coso, di percorso. E glielo è nuda, glielo fermi domani il treno quando è così, con quel diretto di Cagliari, ciucciù, cioè cammina a Bogus. Casotto. Vabbè. Beh, signori belli, dai, io sono le 20:15 quasi, 8:15. Vi saluto, grazie come sempre le due chiacchiere, per Gianfranco, per te Luca che si è entrato. Fatti sentire, siamo sempre qua, ciao a Marco Condo, Stefano se ancora in ascolto, se chiunque fosse in ascolto, tenendo sempre conto che io saluto non qua qua qua e soprattutto non traditori e persone che non servono a niente, saluto persone serie, quindi tutte quelle che sono in ascolto qua come persone serie. Ok, a te Marco il compito di tenere in piedi la ruota, per me QRT SK, vado a cenare, a domani, ciao a tutti. Ciao Claudio, dai, ci sentiamo domani. Naturalmente purtroppo dovrò chiudere anch'io perché mi sto abbioccando, quindi rilancio Gianfranco. Ciao Luca, ciao Gianfranco, dai. Chiudo anch'io, comincio a prepararmi per un film, a vedermi un po' di film stanotte, Striscia la Notizia, paperissima, tutte quelle cose là, dai. A domani, buonanotte, vai Gianfranco. Ciao ragazzi, buonanotte, buona cena. benissimo. Ciao ciao. Ciao ciao ciao, di nuovo saluti a tutti, buonanotte, a domani, ciao ciao.